questo più segreto, con l'intima certezza che ora siamo in due. E ti racconterei di tutto il mio passato, quello dove non hai camminato, quello che un giorno sarai. Per te io ruberò ogni colore al cielo, dipingerò i miei piedi e ti raggiungerò per lasciare una traccia e un sentiero che mi riporti da te. Non avrò paura di volare in alto, e disegnando un arco mi ritroverò sulle tue ali grandi che mi prenderanno, come si appoggia un fiore sopra un ramo. Accanto mi sentirei incompleta in compagnia di me. Sono un libro interrotto, incompiuto, da sempre in attesa di te. Non avrò paura di volarti accanto, disegnando un arco mi ritroverò sulle tue mani grandi che mi salveranno. Io ti dirò soltanto che ti amo e tu sarai la cura per rinascere. Non avrò paura di volerti accanto, colore, a noi bastiamo.